Yeah, yeah. Pubido egeye Attila. Esa lo presidente King D. Kusi Pubido egeye Attila. E kusi kakuntila. Esa lo presidente. Rap Rude Boy sa King. Rap D Boy Panini. Kusi Attila. E kusi kakuntila. Yeah. E non se torna a reggio, no, no, ma. Rap Rude Boy sa. Non ti guardare indietro, che tu vuoi fare, compa. Yo. Sempre umile. C'è bene un fatto. Yo, oh mamma mia. Non si può. Non si può tornare indietro, non si può tornare indietro. Lo sai, anche se vorresti rivedere tutto quello che c'è stato 10 anni fa, come che va, non si può tornare indietro. Non si può tornare indietro. E gli artisti sono antenne che captano questo, anche al di là di un vetro, di un muro, del cemento, di tutto quello che ti inventi che non riesce in questa città, in questa società. Cambialo oggi, domani non si cambierà. Da solo prendi al volo l'occasione che c'hai, prendi al volo quello che senti dentro il cuore. Non fermarti come me in freestyle. E tutta la gente che spinge vuole più calore. Giro, piro, proprio non marcia, marcia. Te lo dico, originale il presidente. Quando prende il mic lo sai che avanza. Perciò se il razzismo non va, buttalo giù. O la vigina cultura in Italia, il presidente non ci sta, metti la tua. Quando prende il mic, tira una mano su. Origine di Airbrand, spacchia la crew. Non stupido, quando suona abbastanza della musica è la prima importanza. Freestyle lo stile raga, mo fi senti go suona. Pupito e la S su balbasa. No no no no no no, non perdona, ma lo sai quale dello prima problema c'è sta città. Tenendo tutti quanti la testa sotto alla terra, ma non sai come è della storia, non si ripete. Ma ci non menti, non vede, anzi non succede niente. Pupito e sa cos'è, presenta non un pischè. Lui non vede, ranu no. No, no, giusta ci uccidici quando parli con gli amici. Ma parli del problema dell'ICI oppure non tieni la bici. Dici che dici qui tu che vuoi farci, ma alla fine no, non ci credi. Allora menti la faccia in tutto qui tu che respiri. Questo è pubblico, lo sai come funziona. C'è de gente che ci face una canna e subito dopo se stona. Ma quando piglia il microfono ma non lo sai ci combina. Dice che se fuma ganja della sera alla mattina. Ma qui sta una bella realtà ed è un'altra la realtà. Compa questa musica come la faci la fa. E così te la vivere, compa non ci credere. Oggi è arrivato il momento in cui tu devi decidere. Ah! mandula gente.